Siamo con Valerio Carocci del Piccolo Cinema America per parlare del cinema in piazza dal 1 giugno all'8 settembre a Tor Sapienza, Parco della Cervelletta, Ostia, Porto Turistico di Roma e Trastevere, Liceo Kennedy. Valerio, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. Sì, un progetto che mira a rompere il dualismo tra centro e periferia, tentando di ricreare un'unica città laica, libera e solidale. La conferenza stampa mi hai detto è andata piuttosto bene. Raccontaci un po' del programma. Abbiamo apertura del Kennedy, Francesco Bruno con Giuliano Montaldo e tutto quello che vuoi. Il 10 luglio Gigi Proietti che presenta Febbre da cavallo, Laura Bisturi, Costanza Quadriglio, Marco Bellocchio, Roberto Andò, fino poi a Cervelletta il 9 giugno con Scarlett Diva e Asia Argento per il caso Weinstein, e tutta una retrospettiva la domenica con Garrone che presenterà i suoi primi film. A Ostia apre le danze Carlo Verdone, andrà Luca Guadagnino a presentare L'Impero dei Sensi di Oshima. Il programma è su www.cinemainpiazza.it. L'ingresso è gratuito, 200 proiezioni, 190 opere cinematografiche diverse e 50 incontri in 60 giorni. Senti, molte date si incrociano, come avete fatto per organizzarvi? È stata un'impresa. È stata un'impresa, infatti io ho gli occhi incrociati e il mal di testa, però è stato bello. Ora vogliamo vedere questi luoghi pieni, quindi quello che facciamo è un appello a tutta la città a diffondere il programma e a metterlo a disposizione di tutta la cittadinanza. Quali sono stati un po' i criteri di scelta dei titoli da proporre? Criteri di scelta sono stati semplicemente quello che ci va di fare. Abbiamo tentato di equilibrarlo con quello che riteniamo possa in qualche modo essere accattivante di interesse per ciascuna tipologia di pubblico e di persona, cittadino, residente o che attraversa semplicemente il rione. Quindi il tentativo è di essere aperti e di dare la possibilità a chiunque di fruire delle nostre proiezioni. Molte proiezioni sono legate a un ospite, all'autore del film o del documentario? Sì, ci sono moltissime opere legate all'autore. Abbiamo il lunedì e il martedì dei cortometraggi in collaborazione con la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté e la proiezione di registi under 35 che presenteranno le proprie Quella bella locandina. opere. La locandina è un'illustrazione di Lorenzo Terranera che ha calorosamente e generosamente donato al Piccolo Cinema America. Bene. Senti, per quanto riguarda tutte le informazioni, ci ripeti tutti i riferimenti? www.cinempiazza.it, Facebook e Instagram chiocciola Piccola America e per Facebook sempre chiocciola Piccola America o chiocciola il cinema in piazza.it. Valerio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Ricordiamo dal 1 giugno all'8 settembre le tre piazze: Tor Sapienza, Parco della Cervelletta, Ostia, Porto Turistico di Roma, Trastevere, Liceo Kennedy. Un abbraccio e a presto. Ciao a tutti, grazie.